2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 28 marzo 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet a partire da lunedì pomeriggio. Potete scaricarla direttamente dal nostro sito internet oppure, come vi consigliamo sempre, potete abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Tutte le informazioni le trovate online www.radio24.it con il podcast, lo ricordo, con i programmi che riescono a gestire questo servizio, programmi disponibili in rete gratuitamente. Potrete scaricare, aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione anche in modalità automatica. Quindi appena il computer è collegato a internet e vede che in rete esiste una nuova puntata di 2024, lui la scarica direttamente. In questa puntata parleremo di libri digitali, parleremo anche di musica digitale con un servizio lanciato in questi giorni, proprio in questo fine settimana, da Nokia, che dopo un'esperienza fatta in Gran Bretagna arriva anche qua con il Comes with Music. Spiegheremo di che cosa si tratta, un'idea sicuramente originale, nuova nel campo della musica digitale. Tra poco ci occuperemo di neutralità della rete, un tema estremamente importante, forse non molto dibattuto, ma scopriremo di che cosa si tratta tra poco. Parliamo spesso a 2024 anche di libertà digitale in rete e dei tentativi, non solo in Italia, di colpire la rete internet con provvedimenti di legge molto criticati in rete, su internet, da molti esperti. L'ultimo, seppur indirettamente a criticare, Lawrence Lessig, giurista ad Harvard e Stanford. Sono, per chi è esperto di internet, questo è un grande esperto, ma una vera e propria autorità in materia di rete, di diritti. Ieri era a Milano, ha ribadito che da una rete libera potrà nascere una nuova democrazia, quindi è molto importante che la rete rimanga libera. A sostenere la causa di una rete dove le idee possono essere espresse liberamente c'è stato anche in settimana un voto del Parlamento europeo, che ha approvato con 481 voti favorevoli, 25 contrari e 21 astensioni, una raccomandazione con la quale richiama l'attenzione del Consiglio europeo sull'esigenza di un equo contemperamento tra i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e degli utenti su internet e la pur necessaria repressione di fenomeni illeciti posti in essere online. Quindi un messaggio molto chiaro, cioè dice: non esagerate con i provvedimenti che sono in discussione in alcuni paesi, non in tutti i paesi. Ne abbiamo parlato spesso, la Francia si è dimostrata molto severa con provvedimenti che poi molti esperti ritengono inapplicabili, ma almeno a livello di principio si è dimostrata appunto molto severa. Vedremo e seguiremo il dibattito in corso anche in Italia in queste settimane. Sapete che esiste un comitato tecnico antipirateria che sta discutendo, sta sentendo i protagonisti del settore su internet, se non tutti, alcuni si sono lamentati per non essere stati auditi. Vedremo poi se ci saranno dei cambiamenti, anche perché chi guidava questo comitato, l'abbiamo avuto anche ai microfoni di 2024 su Radio 24, era il professor Masi, che è diventato direttore generale della RAI, e quindi il comitato avrà presto una nuova guida. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Cambiamo argomento. Se non avete mai provato Internet Archive, il grande archivio della rete e il suo servizio chiamato Macchina del Tempo, la Wayback Machine, vi consiglio di fare un giro su www.archive.org, scritto archive.org, dove è possibile vedere le prime pagine di molti siti internet archiviati, pensate, dal 1996 ad oggi. Ci sono anche altre pagine web, non solo le home page, per un totale di 86 miliardi di documenti archiviati. Quindi se volete vedere ad esempio la prima pagina del Sole 24 Ore online di qualche anno fa, potete andare su questo archivio che salva proprio un'impressione delle pagine. Naturalmente i siti più grandi, i siti più noti, soprattutto quelli americani, sono archiviati più spesso, quindi trovate molte più pagine rispetto ad altri paesi, ma sicuramente è un servizio gratuito molto interessante e anche molto utile. In questi giorni Internet Archive sta migrando su un nuovo data center molto più importante, molto più imponente, realizzato a Santa Clara in California dalla Sun. Citiamo la Sun anche perché voci sempre più insistenti dicono essere nel mirino di IBM. Secondo la Reuters, nessuna delle due aziende ha confermato che i colloqui siano in corso, ma alcune fonti dicono che le due parti stanno negoziando un accordo che potrebbe potenziare l'attività dei server di fascia alta e il software di IBM. Bisognerà poi vedere che cosa sarà, che cosa ne sarà di tutte quelle aree della Sun interessanti per la rete internet, come lo sviluppo di Java, oppure ad esempio lo sviluppo di OpenOffice, questo programma, questa suite da ufficio gratuita e libera che può essere utilizzata da tutti grazie al supporto di Sun. Per ora invece è ufficiale un'altra notizia, cioè il taglio di 5.000 posti di lavoro alla IBM, tagli che colpiranno gli Stati Uniti, dove la società impiega 115.000 persone, i dipendenti mondiali invece sfiorano i 400.000. Parliamo di Voice over IP, le telefonate non sempre gratuite su internet, ma comunque a basso costo che sfruttano la rete internet. L'8% del traffico delle chiamate internazionali nel 2008 è avvenuto tramite, pensate un po', Skype, quindi 8% su un traffico mondiale, sicuramente una bella fetta di mercato. Un traffico che è aumentato del 41% rispetto all'anno precedente. Skype, lo sapete, finora si è concentrata sul mercato dei privati, come sapete permette di telefonare gratuitamente ad altri utenti Skype, cosa peraltro possibile con tutti i sistemi di telefonia VoIP. Se siete abbonati a un servizio di telefonia VoIP potete chiamare gratuitamente gli altri utenti di questo servizio, quindi questa non è una prerogativa sola di Skype, ma sicuramente questo sistema, che oggi appartiene a eBay, è diventato molto famoso. C'è sicuramente un altro fattore che ha reso popolare questo servizio, perché Skype offre tariffe molto aggressive per le chiamate illimitate ai numeri fissi, quindi come dicevamo permette di fare telefonate gratuite ad altri utenti Skype, ma permette anche di telefonare ai tradizionali numeri con un prefisso di rete fissa. Pensate che ha abbonamenti che vanno da poco più di 3 euro per le chiamate illimitate ai fissi di un singolo paese a poco più di 10 euro per chiamate illimitate in tutto il mondo. A volte con i servizi di telefonia tradizionale 10 euro si spendono per una sola telefonata, magari fatta negli Stati Uniti o in Australia. È notizia di questa settimana che Skype sta allargando e sta rendendo disponibili i servizi anche alle aziende, ed è questa una notizia sicuramente molto interessante per molte aziende che hanno problemi con i centralini e quindi a volte i servizi VoIP non riescono a integrarsi bene con il centralino aziendale. Beh, oggi c'è questa novità di Skype che si rende disponibile anche alle aziende. Parliamo, come dicevo, di neutralità della rete, perché questa settimana è stato presentato al Senato un progetto di legge proprio sulla neutralità delle reti. La proposta è stata presentata, il progetto è stato presentato dai senatori Vita e Vimercati del PD, una proposta che consiste in un provvedimento finalizzato a promuovere il principio della neutralità della rete e una società dell'informazione più aperta. Questo è un tema sul quale molto spesso tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo, a livello locale ad esempio ci sono varie esperienze in alcuni comuni, la rete speriamo sia un terreno di accordo di tutte le forze politiche. Comunque questa è una buona notizia, il documento accoglie principi e obiettivi di nnsquad.it, che è un gruppo che si batte per difendere la neutralità della rete in Italia e che nasce come sezione italiana di nnsquad.org, nato negli Stati Uniti. NN sta per Network Neutrality, quindi neutralità della rete. Ma che cos'è e perché è importante questa, che per il momento è solo una proposta, un progetto, poi vedremo se verrà approvato. Ne parliamo con Alessandro Longo. Alessandro, bentornato a 2024. Grazie, saluto tutti. Dunque, per quale motivo è importante parlare di neutralità della rete, ma soprattutto che cosa intendiamo per neutralità della rete? La neutralità della rete è un principio che adesso già si applica, anche se noi non lo sappiamo, e da sempre si applica, ed è considerato uno dei principi fondanti di Internet, cioè uno di quei principi che ha permesso a Internet di essere così come la conosciamo, un luogo aperto dove possiamo trovare qualsiasi applicazione innovativa e permettere a qualsiasi applicazione di diventare famosa, come appunto nel caso di Google, eccetera, eccetera. Neutralità della rete in termini tecnici è il principio secondo cui un operatore, gli operatori Internet che forniscono accesso a Internet, non possono né devono discriminare il traffico dell'utente, né essere costretti a farlo. Discriminare il traffico significa rallentare o velocizzare alcuni pacchetti dati, il traffico a seconda del tipo di applicazione o di contenuto che è sottostante a questo traffico. Quindi, per esempio, non possono, un operatore di telecomunicazione non può rendere Google più veloce di Microsoft o viceversa per l'utente a seconda dei propri rapporti commerciali con queste aziende. Un operatore potrebbe avere migliori rapporti con Microsoft, per esempio, e per questo motivo essere tentato di far andare meglio i servizi Microsoft su Internet rispetto a quelli Google, velocizzando l'accesso dell'utente ai servizi Microsoft, o viceversa, chiaramente, è sempre soltanto un esempio. Ecco, tutto questo non si può fare perché c'è appunto il principio della neutralità della rete che è ancora valido e attivo, però è iniziato a essere messo in discussione. Tu dici oggi questo non si può fare, per rapporti commerciali che sono stati implementati in rete tra i vari gestori delle reti per consuetudine o perché esistono delle leggi? Non ci sono delle leggi chiare e definite, però per consuetudine non è mai stato fatto e di questo gli operatori ne sono consapevoli, infatti hanno iniziato a proporre questa possibilità, hanno chiesto: vogliamo fare così, possiamo farlo, e le istituzioni in America e in Europa hanno detto aspettate. Sì, per paragonare quello che si sta mettendo in discussione con un esempio chiaro a tutti, con l'autostrada, è un po' come se il gestore dell'autostrada cominciasse a dire: ma io le auto colorate di giallo non le voglio vedere sulle mie strade. Un po' questo potrebbe essere lo scenario. Certo, la cosa è molto più complessa. Che cosa potrebbe accadere? Cioè, gli grandi operatori di telecomunicazioni a che cosa maggiormente sono interessati? Quindi le loro proposte di andare contro questo principio della neutralità della rete potrebbero portare a quali scenari, ad esempio? Allora, se va male per Internet e per i sostenitori della neutralità della rete, potrebbe accadere che un operatore dica: caro Google, se vuoi che i tuoi servizi siano veloci, pagami. Pagami per far vedere YouTube bene, per esempio, ai tuoi utenti, e di conseguenza ci sarebbe un muro all'innovazione, così sostengono appunto i difensori di questo principio, perché una piccola azienda, che non ha possibilità di pagare l'operatore ma con un servizio innovativo, avrebbe molte difficoltà a emergere perché il suo servizio andrebbe non veloce come quelli che possono permettersi di pagare l'operatore. ...2024. Parleremo di musica digitale tra poco e poi anche di libri digitali a 2024. Adesso ci stiamo occupando di neutralità della rete. Come dicevamo poco fa, è stato presentato un progetto di legge che parla di neutralità della rete. Una cosa che potrebbe sorprendere, visto che spesso citiamo proposte, emendamenti che affrontano il tema Internet in modo abbastanza maldestro, e invece questa è sicuramente una proposta che parla il linguaggio della rete. Ma per quale motivo è interessante ed è auspicabile un'approvazione anche, speriamo, con l'accordo di tutte le parti politiche. Alessandro Longo. Beh, sicuramente la prima, proprio primo disegno di legge in Italia è forse uno dei primi al mondo a parlare in questo modo di neutralità della rete, cioè di difesa del principio di neutralità della rete. Questa proposta di legge vorrebbe mettere nero su bianco la difesa di questo principio. Ecco, nessuno mai, nessuna coalizione politica ha mai pensato di proporre una legge di questa fatta. Che cosa prevede questa proposta? Quali sono i punti principali? Beh, appunto quello che abbiamo detto, cioè che gli operatori non devono discriminare l'accesso internet dei propri utenti in base all'applicazione e al contenuto. Quindi, insomma, se dovesse passare mai una legge di questo tipo, si taglierebbe il problema alla radice, anche se più probabilmente il tema verrà affrontato e risolto in un modo o nell'altro in sede comunitaria, dove in questi giorni viene appunto discusso il principio di neutralità della rete. È previsto il 31 marzo un voto molto importante che deciderà se inserire nelle nuove regole Telecom la possibilità o meno degli operatori di violare questo principio. Quindi sicuramente la prossima settimana è una settimana importante per i provvedimenti che riguardano il mondo delle telecomunicazioni in Europa anche da questo punto di vista. Alessandro, io ti ringrazio, magari ci sentiamo nelle prossime settimane con le novità relative a tutto quello che sta accadendo in Europa e anche in Italia. Per il momento grazie, buon lavoro, a presto. Grazie, saluto. Adesso cambiamo argomento, prima però una notizia che arriva dagli operatori concorrenti di Telecom Italia, che si lamentano di una decisione presa in settimana dalla Agicom, dall'autorità garante per le comunicazioni. Fastweb, Vodafone, Tele2, Wind e BT, British Telecom, che opera in Italia, si dicono contrari alla decisione di aumentare il canone del cosiddetto unbundling. Ne abbiamo parlato più volte, cioè il prezzo all'ingrosso pagato dagli operatori alternativi per affittare le linee Telecom Italia, quelle che arrivano, come si dice, l'ultimo miglio che arriva a casa nostra. Questa è una questione tra operatori, potrebbero dire i più, ma poi naturalmente i prezzi all'ingrosso vengono riversati gradualmente al consumatore finale. Poi qua c'è anche un problema di investimenti fatti per aggiornare e potenziare le reti alternative a Telecom Italia. Di rete internet e anche della rete di prossima generazione fortunatamente il governo continua a parlare, e in modo particolare continua a parlare con Francesco Caio, che ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico, quindi al ministro Scajola e al sottosegretario Romani, le proposte per la creazione di una rete di prossima generazione o comunque dello sviluppo della rete di Telecom Italia. Scajola in settimana ha detto che la rete dovrà essere unica, quindi poi vedremo come si dipanerà questo tema molto importante, questo dibattito estremamente importante per lo sviluppo anche economico dell'Italia. Di questo parleremo poi a 2024, ne abbiamo già parlato, ma sicuramente torneremo sul tema. Adesso la musica. Questa settimana è arrivato anche in Italia il servizio lanciato in Gran Bretagna da Nokia, che si chiama Comes with Music. Saluto Andrea Montagnini, che è responsabile del Nokia Music Store italiano. Benvenuto a 2024. Grazie. Partiamo proprio dal Nokia Music Store. Questo è un negozio di musica così come ne esistono altri, quindi da questo punto di vista, almeno il fulcro da cui poi partono tutti i servizi di cui parleremo è un negozio virtuale. Sì, un negozio di download digitale. La particolarità del Nokia Music Store è che comunque è un negozio identico, fruibile sia da internet che da telefonino. Io posso, come consumatore che magari non ha un telefono Nokia, utilizzare questo store per scaricare la musica sul mio computer? Assolutamente sì. Acquistare musica e ascoltarla sul computer. Esatto. Voi però, naturalmente, siete un'azienda che nasce come produttore di telefoni e quindi state cercando di legare sempre di più i telefonini con la musica. Addirittura c'è qualcuno tra voi che dice che voi siete i più grandi produttori di player MP3. Tutti i telefonini Nokia di nuova generazione sono lettori musicali, quindi è ormai integrata la funzione. Fin qua potremmo dire che non ci sono grandi novità, c'è un negozio virtuale, ci sono dei telefonini che fanno anche da player MP3. L'idea, e sicuramente questa è un'idea intelligente, interessante, è di vendere un telefono che si porta dietro una serie di cose, ed è per questo che il servizio si chiama Comes with Music, quindi arriva con la musica. Che cos'è? Un telefono, un servizio, un abbonamento a cosa? È una soluzione, quindi un telefono con un servizio. Il primo telefonino di Nokia Touch, quindi il 5008, arriva in versione Comes with Music, cioè vuol dire che comprando un telefonino 5008 Comes with Music si ha un abbonamento per 12 mesi per poter scaricare in maniera illimitata tutta la musica disponibile sul Nokia Music Store. Quante canzoni ci sono? 5 milioni, quindi aumentano giornalmente. Quindi io potrei comprare questo telefono e scaricare tutte 5 milioni di canzoni? Basta avere tempo. Anche un hard disk capiente magari. Ovviamente. Tutte 5 milioni non ci stanno sul telefonino. Quanto costa questo telefonino? Quindi quanto costa poi l'abbonamento? Sì, telefonino, abbonamento, tutto insieme 469 euro. Dal momento dell'attivazione del servizio, che avviene contestualmente su un computer di casa, dell'ufficio, non ha importanza, è il telefonino per 12 mesi. Questa musica è liberamente fruibile o la posso, che ne so, ascoltare solo sul telefonino, solo sul computer? La musica rimane all'interno del computer registrato e del telefonino. E tutti i file sono VMA protetti da DRM. Quindi da questo punto di vista. Poi parliamo anche del DRM e delle protezioni. Se compro un telefono nuovo o banalmente se ho due telefoni Nokia... Ma il servizio segue solo un telefono. E nel momento della registrazione il telefono e il computer vengono locati insieme in modo che il servizio sia fruibile solo dallo stesso telefono e dallo stesso computer. In caso di problemi, perdita di dati, il computer ha dei problemi, si può comunque contattare l'assistenza e cambiare il computer di riferimento. Quindi la musica rimane mia anche dopo questo anno di abbonamento? Questa è la differenza, diciamo, la novità rispetto ad altri servizi di download digitale all you can eat, nel senso che alla fine del servizio, questa è la cosa che ci teniamo. All you can eat vuol dire tutto quello che vuoi mangiare lo mangi, cioè in questo caso la musica. Tutto quello che vuoi scaricare, per quello che noi diciamo che il limite è semplicemente il tempo, alla fine dei 12 mesi, quindi alla fine della scadenza del servizio, la musica rimane. Quindi io posso cambiare il computer sulla quale si può cambiare il computer, si può trasferire da e verso il telefonino, è proprio viceversa. Ok, dicevamo del DRM, allora noi sappiamo che non solo Apple, ma quando le cose le fa la Apple, visto che in questo mercato, nel mercato della musica digitale, Apple è un nome e anche una fetta di mercato molto importante, poi quello che sceglie Apple viene scelto anche dal resto del mercato. Apple sta gradualmente abbandonando il DRM, quindi ti dice: tu puoi acquistare una canzone, poi la puoi utilizzare dove vuoi e come vuoi, su computer, addirittura passarla anche a un tuo amico, così come succede per un MP3 normale che io ho sul mio computer, sul mio lettore di file MP3. Voi però in questo caso dite: ancora questo passaggio non lo facciamo, cioè ti vendiamo musica con questo abbonamento che è bloccata. Che cosa farete? Bentornati a 2024, sono Enrico Pagliarini, seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Domani ci sarà una puntata speciale del nostro programma in onda alla sera tra le 22 e le 23. Naturalmente ci troverete anche su internet, tutte le informazioni sono su www.radio24.it. Il nostro indirizzo di posta elettronica per scriverci per qualsiasi motivo è 2024, quindi 2024 e radio24.it. Tra poco parliamo di libri digitali, degli e-book. Adesso è con noi Andrea Montagnini, che è responsabile del Nokia Music Store italiano, perché da questo weekend è disponibile anche in Italia un servizio sicuramente nuovo, è un'idea nuova, cioè compri un telefono e automaticamente ti viene regalato un abbonamento per scaricare illimitatamente musica da un negozio virtuale, quindi hai tutte le canzoni che vuoi per un anno. Dicevo poco fa che Apple sta gradualmente, Apple che con iTunes domina il mercato della musica digitale sta abbandonando gradualmente quelli che vengono definiti lucchetti digitali, cioè i DRM, cioè non ci sono più protezioni, quindi io i file li utilizzo come voglio. Voi Montagnini, da questo punto di vista, state osservando cosa succede sul mercato, mi sembra di capire. Sì, diciamo che è il mercato che chiede la modifica verso questa direzione, quindi il DRM free. C'è da dire che sono stati fatti anche comunque diversi studi per cui il 95% della musica che c'è nei lettori musicali arriva non dai negozi, quindi si può dire un falso problema, nel senso che la maggior parte arriva o da musica download di pirateria o comunque da CD che sono stati inseriti all'interno dei lettori musicali. Il mercato chiede questa evoluzione, anche noi ci stiamo pensando e molto probabilmente arriveremo a una simile evoluzione. Questo è un paese dove la percezione dell'illegalità quando si scarica la musica è molto bassa, cioè molti dicono vabbè, io scarico la musica ma non è mica una cosa vietata, insomma, quindi la percezione è molto bassa. Voi pensate di riuscire, questo naturalmente è uno dei vostri tanti telefoni, quindi non so poi quale fetta di mercato vogliate coprire, però sicuramente sulla musica e sui servizi online voi state puntando molto, pensate di diciamo bucare una percezione che è molto così vasta sul mercato, cioè dite ti do musica gratuita però devi comprare un telefono. Diciamo che noi abbiamo diversi segnali per cui c'è molta voglia di musica, e è chiaro che in questo momento la cosa, uno degli scogli maggiori, soprattutto in Italia, che purtroppo non si è distinta per ottime percentuali di musica di download legale, è il costo della musica. Se uno fa un banalissimo calcolo, quando uno ha 5 milioni di canzoni disponibili, il prezzo per singola canzone diventa assolutamente irrisorio, quindi siamo convinti che questa sia una leva. Non è più il problema compro un CD a quanto mi costa, qui il servizio per 12 mesi, veramente il download è illimitato, c'è soltanto il limite, quindi il prezzo, il costo per singola canzone tende allo zero. Sì, se io lo scarico tutte e 5.000, certo, se ne scarico 100 il costo è più elevato di 100 canzoni, se ne scarico 1.000 già il costo è più basso rispetto ai negozi tradizionali, insomma. Diciamo che il feedback che abbiamo avuto dall'Inghilterra, che è stata la prima a lanciare questo servizio, gli utilizzatori del servizio si sono dimostrati assolutamente entusiasti e il numero delle canzoni scaricate è assolutamente interessante. Senti, dopo 12 mesi che cosa succede? La musica rimane. Sia nel telefonino che nel computer o in entrambi, e poi uno in caso se volesse rinnovare il servizio compra un altro cellulare. Quindi di fatto il costo dell'abbonamento è il costo del telefono. Esatto. Anche alla fine dei 12 mesi. Sì. Bene, grazie per essere stato con noi, a presto, grazie, buon a voi. Lavoro. Grazie. C'è un'altra notizia che riguarda Nokia, in questo caso parliamo di soldi e non di musica, perché la società finlandese ha annunciato di avere acquisito una quota di minoranza nella californiana OboPay, un'azienda specializzata in sistemi di pagamento con telefonino, quello che gli esperti definiscono il mobile payment, un settore dove si vede ancora molto poco in Italia, ne abbiamo parlato anche recentemente un paio di settimane fa, 2024, ma che nel mondo conta già 20 milioni di utenti e che nel 2014, quindi tra 5 anni, potrebbe superare i 900 milioni di utenti in tutto il mondo. Adesso parliamo di libri digitali, di quelli che vengono definiti gli e-book. Sono hardware o software? Beh, nelle ultime settimane ci sono state alcune novità interessanti, insomma il mercato sta crescendo e arrivano novità appunto interessanti. Ne parliamo con Antonio Tombolini, che è fondatore e amministratore delegato di Simplicissimus Book Farm. Benvenuto a 2024. Grazie a voi. Voi vi occupate dal 2006 di libri digitali, di ebook. Allora, vorrei farti subito una domanda. Per voi che cosa sono i libri digitali? Sono contenuti, quindi sono software che poi noi leggiamo su qualche strumento, oppure sono strumenti veri e propri, hardware? Ma l'aspetto interessante è che l'ebook è ormai come il libro che conosciamo. La stessa domanda ce la potremmo porre per il libro tradizionale. Quando diciamo la parola libro, Intendiamo da un lato il libro nel senso del libro di carta, come siamo stati abituati per secoli ormai ad intenderlo. Quindi l'hardware. E quindi l'hardware, e dall'altro invece il libro nel senso la Divina Commedia, che è quel contenuto, quel software, potremmo dire, che è l'oggetto della mia lettura. Il fatto che l'ebook sia ormai un tema arrivato alla percezione dei più è testimoniato proprio da questa stessa ambiguità che si replica nel caso degli ebook. Parliamo di ebook sia riferendoci a una nuova generazione di lettori di libri digitali basati su inchiostro elettronico, e sia naturalmente, come sempre, come in tutta la storia, al contenuto che possiamo leggere grazie al software su questi nuovi supporti. Questo è sicuramente una visione interessante, anche molto semplice per capire che cosa sono oggi i libri digitali. Partiamo dall'hardware, che è forse l'aspetto che, ahimè, alla radio non si vede, ma che nel caso uno cominci a diventare un utilizzatore di libri digitali, insomma, è la prima cosa che tocca, che nota. Oggi l'hardware sta cominciando a diventare un buon hardware. Ecco, però diamo una definizione di buon hardware. Ci sono degli strumenti che ci permettono di leggere veramente molto bene con inchiostro digitale, quindi vorrei anche approfondire questo aspetto tecnologico. Questi strumenti sono, quando li si guarda, simili, ma non sono uguali, sono simili a un tablet PC, giusto? Ma sì, come specie di palmare un po' grosso. Bravissimo. Poi un po' grosso dipende, perché ci sono i diversi standard di schermo, quindi dagli schermi più piccoli a 6 pollici, che sono veramente dei tascabili, potremmo dire, fino invece agli schermi più grandi, come quello che, ahimè, soltanto tu e io in questo momento possiamo vedere, abbiamo qui davanti, da 10 pollici, eccetera. No, direi che sostanzialmente si tratta, per tentare di spiegare di cosa stiamo parlando a chi non ne avesse ancora visti di persona, di immaginare esattamente un foglio di carta elettronica, ma che adotta, e questo è il punto chiave della rivoluzione che si è innescata, diciamo, a partire da 2 o 3 anni fa, che adotta come approccio di visualizzazione non più quello tradizionale di tutti gli strumenti elettronici a cui siamo abituati, quindi l'LCD, dove quello che vedo lo vedo perché si accendono dei pixel, dei puntini, e quindi ricevo delle radiazioni luminose agli occhi. In questo caso l'ottica è ribaltata, quello che leggo su questi dispositivi lo leggo come avviene per la carta stampata, grazie alla luce esterna. Mentre leggo, la pagina che sto leggendo è spenta nello schermo. Il dispositivo, l'ebook reader, si accende per un attimo quando cambio pagina per stampare la nuova pagina e poi si spegne di nuovo. Questo naturalmente significa che ho finalmente, anche per la lettura digitale, la possibilità di una lettura confortevole come quella su carta, perché l'occhio non colpito da radiazioni non si stanca ed è pronto ad una lettura anche prolungata e anche in condizioni di luce in cui il computer non sarebbe utilizzabile, in pieno sole piuttosto che all'aperto e così via. Al buio? Come al buio non si vede nulla, esattamente. Come nel libro tradizionale. Devo tornare alla abat-jour sul comodino se voglio leggere di notte il mio ebook. Stiamo parlando di libri digitali a 2024, abbiamo citato questa tecnologia particolare che viene applicata agli ebook reader, quindi ai lettori di libri digitali, che si chiama e-ink, quindi inchiostro elettronico. Antonio Tombolini, che come dicevo ha fondato Simplicissimus Book Farm e si occupa dal 2006 solo di libri digitali, ci dice qualche cosa di più di questa tecnologia. Antonio. Dunque, innanzitutto diciamo che la società e-ink è una società che in sostanza detiene questo brevetto, è una emanazione dell'MIT, del Massachusetts Institute for Technology, che ha messo a punto questa invenzione ormai circa 10 anni fa. La cosa poi è stata sviluppata in termini applicativi innanzitutto dal gruppo Philips e così via. Come funziona? Direi che il riferimento per rendere l'idea del funzionamento di questa tecnologia, il riferimento migliore è di nuovo la stampa a getto d'inchiostro. Nella stampa su carta a getto d'inchiostro abbiamo un foglio di carta su cui vengono proiettate delle sostanze coloranti attraverso la stampante. Nel caso dell'inchiostro elettronico su questi dispositivi abbiamo un display formato da due strati all'interno dei quali navigano delle microcapsule pigmentate, in questa fase bianche e nere. Quando stampo una pagina e quindi quando do ordine al dispositivo di cambiare pagina, queste particelle vengono eccitate elettricamente e spinte verso l'alto per stampare il punto bianco o il punto nero, oppure restano a metà strada, per così dire, per stampare punti di grigio. Di grigio, sì. In questa fase la tecnologia arriva fino ai 16 toni di grigio. Dopodiché, ripeto, il tutto si spegne e quindi ho la mia pagina stampata, vera e propria, con vero e proprio inchiostro elettronico su vera e propria carta elettronica. Quindi oggi diciamo che i libri digitali sono in bianco e nero. Allo stato attuale sono in bianco e nero, ripeto, il benchmark, il punto di riferimento sono i 16 toni di grigio. Va detto che sono in corso naturalmente prototipi e ricerca molto avanzata ormai anche sul colore. Per mettere il colore. Che tipo di strumenti esistono sul mercato italiano almeno? Poi il mondo è grande, ci sono altri mercati dove... o meglio il mercato che è quello americano statunitense dove ci sono altri prodotti, però dando uno sguardo al nostro mercato, visto che voi distribuite prodotti hardware oltre che software, che cosa è disponibile, anche a quali prezzi, perché poi questa è anche certo. È una barriera importante, non c'è dubbio, ma diciamo che da questo punto di vista il mercato globale può essere diviso in realtà tra Stati Uniti e resto del mondo, come spesso capita a volte sì. Capita su queste sì. Cose, anche se anche su questo penso che la cosa si andrà rapidamente modificando. Dico Stati Uniti e resto del mondo perché negli Stati Uniti e per ora esclusivamente negli Stati Uniti c'è un dispositivo in più che non è disponibile in nessun altro paese del mondo, che si chiama Kindle ed è il lettore ebook sviluppato da Amazon per il proprio ebook store, che si chiama appunto il Kindle Store. Sì. Nel resto del mondo, e quindi vorrei dire anche in Italia, da questo punto di vista una volta tanto non abbiamo gap sì. Rispetto ad altri paesi, sono disponibili tutti gli altri device basati sulla stessa identica tecnologia. I produttori sono da Sony ad Irex, che è la società del gruppo Philips dedicata allo sviluppo di questi dispositivi, a francese Bukin, c'è un hardware cinese molto interessante prodotto da una società che si chiama Hanlin e così via. I prodotti possono essere sostanzialmente divisi in due grandi classi. In un primo gruppo rientrano Kindle e tutti gli altri lettori basati sullo schermo più piccolo disponibile, che è quello da 6 pollici. Tutti condividono lo stesso schermo e-ink da 6 pollici, che è fabbricato da un'unica società, da un'unica fabbrica. Quindi più o meno insomma prodotti uguali. Poi il display è identico. Il display è identico. Poi naturalmente cambia il design, cambia il firmware, l'interfaccia, software certo. Interno di gestione. E questo è un primo gruppo che è sostanzialmente dedicato, diciamo così, alla lettura di consumo, se vogliamo, alla lettura di tempo libero. Sono dei veri e propri tascabili, comodissimi da portarsi dietro, perché effettivamente avere centinaia di libri a disposizione da poter tirar fuori all'istante in metro piuttosto che in treno e così via, una cosa sì. O in spiaggia, perché si legge sì, benissimo sì. Anche certo. In spiaggia. Su questa fascia i prezzi vanno dai 280 euro ai 350 euro attualmente. Poi c'è un altro gruppo di device, in questo caso per ora il produttore che è già sul mercato è uno solo, si chiama Irex del gruppo Philips, come accennavo prima. Qui passiamo a dispositivi con schermi più grandi, da 8 e da 10 pollici, e soprattutto passiamo a uno strumento che usa l'inchiostro elettronico non più soltanto per leggere ma anche per scrivere. Questo trasforma l'oggetto in un vero e proprio strumento di lavoro. Sì, quasi come un computer, un piccolo computer. Direi di sì, a patto di comprenderne i limiti, certo. Naturalmente sono limiti legati alla tecnologia stessa, per cui non utilizzerei mai un dispositivo come questo per animazioni piuttosto che video e così via. Ma che... Allora, detto dell'hardware, poi magari ci torniamo anche sopra. Forse, scusami Enrico, volevo dare un riferimento di prezzi anche per sì. Questa sì, seconda sì, giusto, fascia giusto, che mi chiedevi, e in questo caso i prezzi vanno dai 450 fino agli 800 euro dei prodotti più sofisticati, prodotti più che fanno dove anche c'è altre connessioni, cose. Sì, eccetera. Sì, sì. Detto dell'hardware, poi la cosa importante è il software. Se io ho un lettore CD, però non ho la musica da ascoltare su quel lettore CD, questo è un problema. Allora, su questi strumenti, che cosa ci posso leggere? Allora, nascono per leggere libri, in questo caso la parola libro è riferita al contenuto. Ecco, per i libri digitali, gli ebook hardware, esistono i libri digitali software, cioè esistono i testi da leggere? Mercato italiano, certo. E qui torniamo, ahimè, invece a una situazione di gap italiana e in parte anche europea, va detto, rispetto al mondo anglosassone. Mentre ormai, per quello che riguarda testi di lingua inglese, la disponibilità in formato elettronico, quindi in formato fruibile con lettori ebook, è pressoché totale, per quello che riguarda pubblicazioni in altre lingue e in particolare in italiano, in realtà potremmo, estremizzando, dire che non esistono ancora ebook da leggere. Dico questo estremizzando un po' perché in realtà esistono già, per esempio, tutti i libri fuori diritti, che sono quindi nel pubblico dominio, che è possibile abbastanza facilmente reperire in rete, scaricarsi e naturalmente leggere. Non esiste ancora un mercato degli ebook perché il mondo dell'editoria sta, e io credo che questo sia un anno chiave, penso ad esempio che nel prossimo maggio, durante la Fiera del Libro di Torino, assisteremo ad alcuni annunci da parte di editori importanti per le prime pubblicazioni di ebook. Cosa importante anche perché nella indisponibilità di ebook, diciamo così, titoli, legali, sì. Ah, certo. chi vuole leggere elettronicamente inevitabilmente finisce per alimentare invece il download illegale anche di libri. Che perché è incredibile, ma mentre gli editori ancora sono lenti nell'affrontare questo nuovo mercato, perché come tu dici, insomma, non esistono titoli elettronici per poi leggerli su questi strumenti, su questi nuovi strumenti, ne esistono di illegali, che è incredibile, cioè il mercato illegale anche in questo caso è stato più veloce di quello legale. Eh sì, bisogna dire di sì, perché io posso forse raccontare un piccolo esperimento che ho fatto personalmente per rendermi conto della cosa. Ho semplicemente preso la classifica in una settimana di qualche mese fa, la classifica dei 10 libri, dei 10 bestseller più venduti in Italia. In 4 minuti ho provato a fare una ricerca su iMule, che è uno dei programmi peer-to-peer più diffusi, e ne ho trovati 7 su 10. E parliamo di bestseller, spesso di recentissima uscita. Questo cosa significa? Significa, da un lato, in termini positivi, che il mercato è pronto, c'è una domanda per questo tipo di contenuti. Dall'altro significa che parliamo di utenti mediamente di età più avanzata che non gli utenti che scaricano musica illegale, e quindi probabilmente di utenti più pronti a passare tranquillamente ad un'offerta legale con un prezzo equo, perché mi metto io, insomma, in questi panni. Ecco, comprerei volentieri. Per prezzo equo che cosa intendi? Beh, naturalmente in un mercato che nasce la cosa va un po' seguita e sperimentata. Diciamo, da un punto di vista generale è ovvio che la filiera di produzione di un libro elettronico consente degli abbattimenti di costi notevolissimi. Basti pensare non solo alla fase di stampa, già quella, ma alla fase di distribuzione e alla fase di reso. Ah, certo. Non rivelo un segreto, perché la Fonte e l'Associazione Editori in Italia sul mercato del libro abbiamo un'incidenza di resi dell'80%. Quindi significa 8 libri su 10 tornano indietro. 10, esatto. E quindi non vengono venduti e tornano in magazzino. E naturalmente il costo di questi 8 libri su 10 ci si riversa inevitabilmente sui due libri che vengono poi acquistati. Sì. Quindi esistono delle economie di produzione non indifferenti. Ciò detto, non è gratis produrre un ebook, naturalmente. Dal punto di vista del mercato possiamo solo dire e dare un occhio a quello che sta accadendo, dove la cosa è già partita, e di nuovo il riferimento è Amazon con il suo Kindle Store. Su Amazon i nuovi libri, i bestseller, escono in contemporanea ormai sia nella versione cartacea che nella versione elettronica. Il riferimento di prezzo di Amazon è: l'ebook non costa mai più di $9.90. Quella è la soglia massima del bestseller di ultima uscita. Il che significa dire più o meno che la soglia massima che l'ebook è attorno a un terzo del prezzo di copertina dell'equivalente libro di carta. Sì, perché se io spendo $300 o €300 per la macchina, cioè per il lettore, poi non voglio spendere troppi soldi. Per... Senti, banalmente, io poi posso passarti un libro, così come in molti casi posso passarti l'MP3? Questo dipende naturalmente dalla scelta degli editori e dei librai. Quindi il DRM, cioè bravo. I lucchetti digitali ci sono anche in questo naturalmente caso. Naturalmente esistono i DRM anche nel caso degli ebook, è una scelta dell'editore, di chi detiene i diritti sul libro, se adottarli o non adottarli. Anche qui credo che assisteremo ad alcune fasi di passaggio dove il film già visto è quello della musica. Ah sì. Probabilmente si partirà con la maggior parte degli editori che adotteranno i DRM, per poi scoprire lungo la strada che il beneficio è minore delle mancate vendite che questo comporta, per poi pian piano, come ormai è successo definitivamente, mi viene da dire, nella musica, rinunciare ai DRM, magari per adottare altre forme di controllo che pure trovo giusto, nel senso che ad esempio nella musica senza DRM, la cosa viene poco raccontata ma è così, in realtà esiste quello che viene chiamato uno watermarking, ovvero nel file musicale che io scarico è implementata una parte di codice che dice che quel file appartiene a me con il mio nome e cognome e la data di acquisto. Credo che la stessa cosa possa essere fatta tranquillamente con i libri e che sia una garanzia sufficiente. Bene, io ringrazio Antonio Tombolini, che ha fondato e amministra Simplicissimus Book Farm. Metteremo poi anche un link sul nostro sito internet. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. E così chiudiamo questa puntata di 2024, torniamo la prossima settimana, sempre nel sabato pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. Grazie a Luigi Borghi in redazione, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 at radio24.it. Appuntamento tra 7 giorni. You are disconnected.